Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ciao ragazze, noi siamo in diretta nel confessionale di Grande Sorella. Ciao. E siamo in compagnia di Stefania, la sposa, e Marta, l'amica o la testimone. Testimone. È entrata con lei nella radio. Come cosa mi dite di bello, ragazzi? Da dove venite? Da Bergamo. Da Bergamo. Non si sente. No, non si sente. Anche perché non sono della zona, quindi non riesco a riconoscere gli accenti. Esatto. E io sono curiosa di sapere, innanzitutto, quando ti sposi? Il 29 luglio. Sei sicura? Sì. Sicurissima? Sì, sì. Anche sì. Dopo questa serata? Sì. Questa è una bella domanda. Io sono curiosa. Qualche dubbio c'è stato. Cosa hai combinato stasera? Raccontami. Quel tipo lì che mi fissa dall'altra parte della cuore. Ma non è questo, vedi? Quindi non hai incontrato nessuno che ti ha fatto cambiare idea? No, per ora no. Per ora no, nessuno. Però ancora c'è ancora un'altra oretta, infatti, quindi non so cosa potrebbe prospettarci la serata. Ma la tua serata è iniziata stasera oppure già stamattina te ne hanno fatte delle stamattina. Belle? Stamattina. Si sono presentate a casa alle 7. Ti hanno svegliato proprio nel meglio del esatto, sonno. Esatto, esatto, sì, sì. Di sì, cosa sì. Hai fatto? Io sono curiosa, cosa hai fatto? Cosa ho fatto? Stamattina? Bella domanda. Lo chiediamo alla signorina lì fuori, vediamo se ci risponde. Cosa ho fatto stamattina? Rafting. Ah, ho fatto rafting. No, stamattina. Vabbè, ci sta che è fuori. È fuori, è al convento, quindi qui se non sei fuori non entri. Esatto. Se non sei un mattino li vogliamo. Guarda, com'è scritto di tua maglia. Quindi lei fa parte di quella categoria. Giusto? Esatto. Sì. Però vediamo se si ricorda alcune domande. Occhio. Da quanto tempo sei con lo futuro sposo insieme? 5 anni e mezzo. Si ricorda, giusto? È vero. Vediamo, un'altra domanda. Come vi siete conosciuti? Amici di amici. È vero o l'ha sparata lì più o meno così? No, più o meno è vero. Più o meno. Amicizie in comune. Amicizie in comune. Gli vuoi fare una domanda, testimone? Vediamo se è in questo momento riesce. O ci vuoi fare una domanda la sposa? Dai, una domanda un po' che la mette a disagio. A disagio? Proviamo, dai. Penso, dimmi l'ultimo desiderio prima di sposarti. Oh cazzo. Bella domanda questa. Dichiararmi a fobo. No. Questa non può essere pubblicata da no. Va bene. Allora facciamo una cosa. Lei domani si ascolterà questo podcast e si renderà conto di quello che ha detto. No, anche perché quando si è ubriachi si dice sempre la verità. È quello il problema. Se questo è il desiderio lo facciamo, vedi. Io lo so che ti assecondo sempre. È una testimone, cioè è una testimone che ti asseconda in tutto e per tutto. Esatto, esatto. Ti copro in questa serata. Abbiamo altre spose da fuori che ci salutano. E come si chiama lo sposo, ricordami? Vincenzo. Vincenzo, io ti vorrei solo dire che lei stasera è stata calma. Brava, infatti. È un po' brilla, ma c'è. C'è, esatto. Ed è stata brava. È stata bravissima. Io confermo. Io te la lascio ancora fuori, nella gabbia di Matti, a divertirsi. Che dici? Va bene? Grazie. Grazie ragazze, è stato un piacere. Ciao. Grazie, ciao.